leggi restano in vigore fino a quando la Corte Costituzionale eventualmente non ritenga di cassarle in tutto o in parte, e quindi questo è. Non è che lo dico io, insomma, lo dice la Costituzione italiana. Non è la prima volta che il governo impugna una legge di questo tipo, l'aveva già fatto con la Toscana e aveva perso. Da questo punto di vista ti chiedo se siete tranquilli sul fatto che giuridicamente la vostra legge possa essere validata. Noi siamo tranquillissimi, nel senso che se avessimo avuto dei dubbi sulla costituzionalità non l'avremmo approvata. Non abbiamo l'abitudine, diciamo, di adottare atti che riteniamo contrari alla Costituzione italiana. Peraltro, appunto, la sentenza della Corte Costituzionale sul caso toscano, dal nostro punto di vista, è abbastanza chiara, nel senso che le obiezioni che in questo caso il governo muove alla nostra legge sono esattamente le stesse che aveva mosso contro quelle della Toscana. Immagino che anche la risposta della Corte sarà in linea, dopodiché vedremo. C'è un dato però un po' più politico, perché due leggi regionali impugnate da un governo che porta avanti l'autonomia differenziata, insomma, fanno impressione. Ma questo è un governo, diciamo, che non riesce a tollerare il dissenso, non lo fa nemmeno quando le regioni o gli enti locali esercitano la loro potestà in un modo che a loro non piace sul piano politico, però si dovrebbero rassegnare, insomma. Bisogna che si rassegnino all'idea che possono esserci leggi regionali che loro non condividono politicamente, ma il fatto che loro le condividano politicamente non ha nulla a che fare con la loro legittimità. Capisco che sia difficile da capire perché ha la cultura di questo governo, ma esiste anche il dissenso, esistono anche opinioni diverse dalle loro e anche la possibilità di agirne. A inizio anno il governo Meloni aveva annunciato un piano casa nazionale, voi ne avete notizia? Non ne ha notizia nessuno. Credo che neanche se ne avrà notizia. Per il momento l'unica cosa che vedo, gli unici numeri che vedo sono somme, diciamo, che loro fanno dei provvedimenti presi da altri, insomma, no? Prendono le risorse messe sulla casa da tutte le regioni e gli enti locali e dicono questa è la politica per la casa. No, questa è la politica sulla casa che fanno le regioni e gli enti locali, visto che il governo nazionale non fa nulla. No, non ci sono notizie, ma soprattutto non ci sono risorse. Questo è il punto vero, perché sai, di notizie ce ne sono tutti i giorni. Quello che manca quotidianamente sono le risorse, e il piano casa senza le risorse non si fa.